L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, che questa settimana vi porterà in visita a Cossato, comune della provincia di Biella, quindi siamo in Piemonte, di circa 15.000 abitanti. Sede di un impianto di cogenerazione, il che significa che vengono prodotti contemporaneamente energia elettrica e calore, inaugurato nel dicembre scorso. È interessante perché la società che l'ha voluto e realizzato, Pellerey Agoenergia, ha creato la prima filiera energetica integrata per l'alimentazione dell'impianto stesso. Agoenergia è un'azienda torinese di progettazione, realizzazione e gestione di impianti industriali per la produzione di elettricità, appunto, ma anche calore e freddo dalla combustione di biomasse solide vegetali vergini. Mentre la famiglia Pellerey guida un'azienda agricola di Cossato che si è specializzata nella pioppicoltura, perché sono per la maggior parte proprio i pioppi ad alimentare la centrale di Cossato, insieme con materiale proveniente dalla pulizia dei boschi vicini. Insieme, queste due società hanno fondato appunto la Pellerey Agoenergia. E se questa è la premessa, diciamo, ora andiamo a Cossato veramente. Autostrada Milano-Torino, uscita Carisio e via in mezzo alle campagne. C'è anche qualche capannone industriale, ma via via diventano sempre più radi, fino all'arrivo a Cossato Paese. E poi, se non sai dove andare, la strada non la trovi più, perché l'impianto non è né particolarmente imponente, né puzzolente, né rumoroso. Unico rumore esterno è infatti questo abbaiare di un cane, e di tanto in tanto si sente anche il motore di un camion che scarica il cippato o di un trattore che questo cippato lo sposta. Nell'aria c'è un odore niente affatto sgradevole di legna tagliata, che viene dai grossi cumuli di cippato, ovvero di legno sminuzzato, che sono sul piazzale. È un odore un po' aspro, quasi di distillato, perché non è legna secca quella, ma è ancora un po' verde, che sta sul piazzale ad essiccarsi prima di essere bruciata e trasformarsi in energia e calore, come testimonia il vapore acqueo che sbuffa da una piccola ciminiera. C'è anche il comignolo della caldaia di combustione sul tetto, ma solo guardando con attenzione si vede che anche da lì sta fuoriuscendo qualcosa. Roberto Sacco è il presidente di Agoenergia. Quello di Cossato è il primo impianto completamente progettato, realizzato e ora gestito dalla sua società, che però ora sta lavorando anche in Toscana e Puglia a progetti simili. Questo impianto che ha fatto la Pellerey Agoenergia è un impianto da 2 MW e 8 elettrici ed è predisposto per fornire anche 7 MW termici per il teleriscaldamento del paese di Cossato. Il nostro impianto fornirebbe il calore per un terzo del fabbisogno di tutto l'impianto di tutto il paese di Cossato. Poi il paese di Cossato si sta organizzando per avere anche il teleriscaldamento e quindi la fornitura dell'altra energia termica che non viene data dal nostro impianto. Però un buon terzo sarà fornito dal nostro impianto e questo è previsto per l'inverno del 2013. Noi siamo già pronti in realtà e che ovviamente stanno costruendo la rete di teleriscaldamento. È un impianto questo che funziona a un classico ciclo a turbina a vapore dalla combustione del cippato di legno. Il cippato di legno si tratta semplicemente di pezzettini di legno vergine, ovviamente quindi legna non trattata, legna che viene proprio tagliata sui campi, è fatta un po' essiccare in un magazzino e poi viene tagliata a pezzettini piccoli e viene caricata direttamente sull'impianto. E c'è all'interno dell'impianto, adesso lo vedremo, una combustione di questa legna. Dalla combustione di questa legna vengono creati dei fumi caldi che fanno evaporare dell'acqua, diciamo un ricircolo di acqua. Quest'acqua evaporando diventa vapore acqueo. Il vapore viene immesso in una turbina a vapore e da lì viene generato, lo vedremo, viene generata la corrente elettrica. Lo stesso vapore continua a essere caldo, va a uno scambiatore di calore e quindi cede poi il calore residuo al teleriscaldamento di Cossato. Alla fine del ciclo ci sono dei condensatori che ricondensano questo vapore, quindi questo vapore ritorna acqua e il ciclo è completamente chiuso, quindi non c'è bisogno di prendere acqua dall'esterno, ma è un ciclo chiuso. E quindi è quanto di questo impianto, è proprio quanto di più, diciamo, verde e naturale ci sia in natura, perché si parla soltanto di legna e acqua e vapore, quindi nient'altro che non è proprio autosufficiente, ed è esattamente anche autosufficiente. Chiaramente il segreto, diciamo il punto di forza, se posso dire, di questo impianto e che siamo noi stessi che abbiamo realizzato l'impianto che di Agoenergia, che grazie a questa partnership, questo accordo, questa società che abbiamo creato con degli agricoltori locali che si chiamano Pellerei, che sono molto bravi, molto forti dal punto di vista appunto della produzione di agricola sul posto, coltiviamo noi direttamente la legna, quindi coltiviamo i pioppi, li facciamo crescere, li tagliamo noi stessi con dei macchinari appositi, li cippiamo, cioè quindi li sminuziamo sempre noi con i nostri macchinari e li carichiamo noi stessi sull'impianto. Quindi questa è una garanzia ulteriore di intanto di averla sempre la materia prima, perché la produciamo noi stessi, di dare lavoro localmente, perché facendo questo tipo di attività diamo lavoro a più di 20 persone soltanto per gestire tutto il discorso della produzione dei pioppi, abbiamo una garanzia della qualità e quindi perché ci sono legna di diversi tipi, no? Dipende tutto dal potere calorifico della legna, noi facendo noi, producendo noi e tagliando noi i pioppi e la legna sappiamo anche qual è il potere calorifico e quindi la resa alla fine, quindi abbiamo anche una garanzia. E una cosa che è anche importante, abbiamo anche sotto controllo i costi, perché sempre producendo noi il tutto non c'è il rischio di essere soggetti a fluttuazioni del mercato sulla materia prima. Ma la produzione locale è sufficiente per l'alimentazione? Beh, noi abbiamo affittato 500 ettari di terreno, affittati, e non li abbiamo comprati, li affittiamo. Su questi 500 ettari di terreno abbiamo fatto un piano naturalmente in modo che ogni anno riusciamo a avere 35.000 tonnellate di cippato all'anno, che è quello sufficiente, necessario per fare la produzione per 8.000 ore all'anno di energia elettrica e termica. Aggiungo però che non tutto viene dai pioppi, ma c'è anche una parte della legna che viene invece ricavata dalla pulizia dei boschi che ci sono sempre in queste zone. I pioppi sono coltivati in short rotation forestry, cioè una coltivazione ad elevata densità e veloce accrescimento. Una volta tagliati, servono a produrre il cippato, come dicevamo, legno sminuzzato che viene destinato all'alimentazione dell'impianto a biomassa. È proprio questa produzione a determinare l'originalità del progetto. Molte centrali a biomassa in Italia, specie quelle di taglia media come questa o grossa, si sono scontrate con problemi seri di approvvigionamento della biomassa necessaria al loro funzionamento. Questo, accostato, non dovrebbe mai accadere grazie alla coltivazione in loco dei pioppi. Il pioppo che usiamo noi ha una rotazione, si dice, di 5 anni. Quindi prima ancora che intervenissimo noi come Agoenergia nel fare il progetto, la famiglia Pellerei aveva già seminato e coltivato e fatto crescere dei pioppi in anticipo, in modo che già all'inizio dell'anno scorso ci fosse già del materiale pronto. Poi devo dire che all'inizio abbiamo utilizzato più pulizia dei boschi, anche perché anche quando siamo partiti la curva di salita produttiva richiede naturalmente una certa non è che da un giorno all'altro fai subito 2 megawatt e 8, no? Quindi nella curva pian piano per accompagnarsi alla curva di salita produttiva all'inizio abbiamo usato più materiale, legna che ricavata dalla pulizia dei boschi che era già disponibile. Nel frattempo i pioppi sono cresciuti, adesso già quest'inverno abbiamo tagliato i primi pioppi che avevano 5 anni. Non si rischia alcuna emissione di diossine, specifica Sacco, perché si usa esclusivamente cippato di legno vergine e quindi una materia prima non trattata con additivi chimici. E rispetto alle emissioni di CO2 l'impianto è a impatto zero. La CO2 rilasciata in ambiente è pari a quella assorbita dalle piante per effetto della fotosintesi clorofilliana. Ma non ci sono scorie? Allora, da questo sistema solo un 2,5% della legna in ingresso diventa cenere, quindi è uno scarto di produzione. Di questo 2,5%, un 2% sono ceneri che possono essere non pericolose e che quindi possono essere assolutamente cedute, per esempio ai cementifici che utilizzano la cenere nel loro processo proprio di produzione, oppure possono essere anche utilizzate come ammendanti proprio per che non sono pericolose. Soltanto lo 0,5% delle ceneri, che sono le ceneri che vengono generate, vengono portate via dal processo, dall'elettrofiltro, che è l'ultima parte di filtrazione, quella più delicata, che porta via le polveri sottili, essendo proprio ceneri derivate dalle polveri sottili, sono molto sottili e quindi non sono riutilizzabili e vanno smaltite come rifiuto speciale. Di conseguenza solo quelle ceneri lì vengono messe dentro dei contenitori che sono molto ben sigillati, in modo che poi quando il contenitore è pieno viene sigillato il tutto e viene smaltito come rifiuto speciale. Le altre ceneri invece vengono portate via con questi camion e ceduti agli utilizzatori. Tutto sembra filare, quindi tutto è a posto, ben tenuto, pulito, profumato. La sala controlli che visitiamo registra ogni movimento e c'è una raffica di monitor che rimandano le immagini di quanto accade all'interno del bruciatore. Ci sono i grafici, i dati aggiornati al secondo e sono gli stessi dati, ci dice Sacco, che il sindaco di Cossato e l'ARPA Piemonte, cioè l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, possono in qualunque momento consultare sui loro computer. L'impianto è dotato di due sistemi di due filtri molto all'avanguardia, molto importanti, che garantiscono che al camino non esce niente. Se lei poi vede dal camino esce solo aria calda, non esce assolutamente niente. Abbiamo ovviamente un controllo delle emissioni in continuo al camino, c'è proprio un controllo continuo che quindi in tempo reale noi possiamo vedere sia qui nella nostra control room, sia nel nostro ufficio di Torino, e sia ovviamente l'ARPA e il sindaco hanno sul computer direttamente il valore delle emissioni proprio in tempo reale, ogni secondo vedono come sta andando. E questo intanto lo facciamo per dare una tranquillità e una garanzia anche agli abitanti, ovviamente, no? Perché potevano essere preoccupati, ma in più anche per noi, perché così vediamo se dovesse mai succedere qualcosa di strano, che per cui magari c'è un valore che esce o si sta avvicinando al limite, noi possiamo intervenire subito. Ma che potrebbe cambiare questo valore? Quello che può cambiare ogni tanto il valore è se arriva una legna che magari è troppo bagnata e quindi non va in temperatura subito, e quindi i CO potrebbero essere a un certo punto in una fase in cui, perché ogni componente delle emissioni viene emesso, è più critico a certe temperature, no? Quindi se c'è per esempio troppa umidità o magari capita, nonostante tutti i controlli che facciamo, che ci sia all'interno qualche oggetto che non sia proprio legna pura, può capitare, allora lì si vede subito che c'è qualche problema sulle emissioni e si interviene subito, e quindi no, alla fine si risolve in 5 minuti, perché poi sono questioni solo di messa a punto del bruciatore. Il cuore di questo impianto è la messa a punto continua. Per definizione noi bruciamo solo legna vergine, oltretutto, quindi neanche trattata, quindi evitiamo di avere della legna che possa essere derivata da mobili vecchi verniciati, incollati, assolutamente legna vergine, e con questo siamo tranquilli. Però giustamente lei dice, se arriva uno e mette dentro invece della legna qualche rifiuto, qualche schifezza, e cosa succede? Prima di tutto te ne accorgi subito delle emissioni, quindi quello che dicevo prima, in un secondo, se c'è qualcosa, se brucia o qualcosa che non va, lo vedi subito da questi monitor, lo vedi subito proprio nello stesso secondo, e quindi intervieni, l'ARPA lo sa, ci fa chiudere l'impianto. Ma nella sua esperienza, quindi casi come quello di Pavia o altri che ci sono stati lì, perché non se n'è accorta l'ARPA? Io non so onestamente se in quell'impianto c'era il controllo in continuo delle emissioni e se questo era collegato all'ARPA, non lo so. Potrebbe non esserci un controllo diretto dell'ARPA, non è obbligatorio? A volte lo mettono nelle prescrizioni e a volte non lo mettono. Noi come Agroenergia lo mettiamo sempre questo sistema. È un sistema, al suo costo, però alla fine è una garanzia. Chiudiamo questa prima parte dell'Altro Pianeta dedicata alla visita all'impianto di cogenerazione di Cossato. Ci ritroviamo subito dopo le informazioni del traffico. L'Altro Pianeta. Eccoci di nuovo in studio. In questa seconda parte dell'Altro Pianeta parleremo di plastica e lo faremo a partire dalla notizia che il gruppo ERA, quindi siamo in Emilia Romagna, ha investito 20 milioni di euro per impianti intelligenti di selezione della plastica, appunto. Diamo quindi il benvenuto a Filippo Brandolini, presidente di ERA Ambiente. Buongiorno a voi. E a Gianluca Bertazzoli, che è responsabile comunicazione del consorzio nazionale Corepla, che è il consorzio, lo ricordiamo, per la raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, Brandolini, questo forte investimento del gruppo per questi impianti di selezione della plastica, perché ne avete sentito, diciamo così, l'esigenza? Diciamo, qual è l'obiettivo finale? Ma ne abbiamo sentito l'esigenza per due ragioni fondamentalmente. La prima è che nella nostra regione negli ultimi anni stiamo registrando una forte crescita della raccolta differenziata e quindi l'esigenza di trattare i materiali raccolti in maniera differenziata in maniera tale da poterli avviare successivamente al riciclo. Perché ricordiamoci che fare raccolta differenziata non è l'unico obiettivo, poi bisogna utilizzare quello che si è raccolto. Esattamente, proprio per questo. E il secondo aspetto, che è un po' coerente con quanto stava dicendo lei, che l'Unione Europea ha stabilito che diciamo, i parametri ambientali siano definiti sulla base dell'effettivo riciclo, non tanto sulle percentuali di raccolta differenziata. Quindi ci stiamo ponendo il problema di valorizzare al meglio questa attività che noi come gruppo ERA svolgiamo in 6 province della regione con il coinvolgimento di tanti cittadini, residenti ma non solo. Pertanto nei nostri impianti di selezione dei rifiuti, ne abbiamo attualmente 5 e abbiamo in previsione di realizzarne uno nuovo nell'area bolognese, abbiamo deciso di potenziare appunto i processi di selezione. Come? Sostituendo le lavorazioni prevalentemente manuali precedentemente in essere con delle attrezzature diffuse, non abbiamo inventato nulla di particolare, già diffuse anche in altre parti del paese, fuori dal paese, dotate di lettori ottici. Questi lettori ottici consentono di aumentare notevolmente sia in quantità che in qualità i rifiuti che poi vengono successivamente avviati al riciclo. Questi processi riguardano principalmente carta e cartone, ma ancor di più la plastica. Poi in questi impianti entrano altri rifiuti, diciamo, della raccolta differenziata, multimateriale, vetro, ma diciamo che i due flussi principali sono la carta e la plastica. Stiamo parlando di, come dicevo prima, 5 impianti collocati nelle province di Ferrara, di Modena, di Ravenna, di Rimini, di Bologna, e ne realizzeremo uno nell'Interland bolognese a partire dal prossimo anno. Alla fine avremo una capacità di rifiuti in ingresso per quasi 500.000 tonnellate. Di queste una parte significativa appunto sarà la plastica e dopo la lavorazione noi conferiamo a impianti di seconda selezione, vale a dire impianti che successivamente separeranno i vari polimeri, i vari tipi di plastica in accordo con il Corepla. Bertazzoli, ci diceva prima il presidente Brandolini, non abbiamo inventato nulla, esistono però esistono impianti, diciamo, simili in altre parti d'Italia, ma quanto sono diffusi impianti così sofisticati in grado di scegliere le plastiche e quindi poi mandarle laddove devono essere mandate? Ma guardi, noi abbiamo 35 impianti di selezione di secondo livello, come giustamente li ha chiamati il presidente Brandolini, che assicurano la selezione per polimero, per tipologia, in qualche caso anche per colore, degli imballaggi in plastica, diciamo, che ci vengono conferiti dai comuni, dalle aziende come ERA, per esempio. Questi impianti ormai sono in grandissima parte impianti automatizzati con le stesse tecnologie di cui parlava il presidente Brandolini. Direi che ormai il 90% dei quantitativi, delle 657.000 tonnellate che nel 2011 sono entrate negli impianti di selezione Corepla, sono state trattate appunto con tecnologie integralmente automatizzate di questo tipo. Quindi parliamo di una realtà industriale ormai molto consolidata, che si è andata anche perfezionando dal punto di vista qualitativo, perché ovviamente le tecnologie migliorano continuamente, e che assicurano maggiore produttività, minori costi e migliori condizioni di lavoro per gli addetti. E certo, perché poi non viene più fatta una selezione anche manuale, si può superare. L'uomo non sparisce del tutto, perché poi l'occhio umano per certi versi rimane indispensabile, però un conto è doverci mettere l'occhio, un conto è doverci mettere le mani, questo, o perlomeno intervenire solo nel caso d'eccezione oppure dover fare il grosso del lavoro, c'è una bella differenza. Certo, quanto è importante distinguere questi tipi di polimeri, che vantaggi dà questa distinzione? Ma la plastica, io dico sempre, quando si dice plastica si dice una cosa molto generica, è un po' come dire pesci o dire fiori, in realtà si è detto una cosa assolutamente generica. La plastica è fatta da tante famiglie diverse, anche la plastica vergine, quella diciamo degli oggetti che noi usiamo quotidianamente, fatta da tanti tipi di polimeri, ogni polimero ha le sue specificità e le sue tipi di applicazioni. Lo stesso ragionamento vale per la plastica riciclata, tanto più noi riusciamo ad avere delle famiglie omogenee per tipologie, così riusciamo ad avere maggiore possibilità di avere sbocchi sul mercato del riciclo e avere dei materiali più performanti che quindi hanno un'applicazione sul mercato del riciclo. Giustamente dicevate prima, la raccolta è uno strumento, il fine è il riciclo, io aggiungo uno step successivo, una volta riciclato bisogna che qualcuno voglia quel materiale, ne faccia richiesta per realizzare nuovi oggetti. Ecco, perché ci sia questa richiesta, in genere è necessario che la plastica sia il più possibile raffinata e separata per tipologie. Ecco perché il lavoro di selezione è fondamentale e costituisce per certi versi la specificità del sistema plastica all'interno del mondo della raccolta differenziata, perché forse nessun altro materiale necessita di un lavoro di separazione a valle della raccolta così impegnativo ed accurato. Presidente Brandolini, ci tenevo a sottolineare un aspetto che forse ho dato per scontato all'inizio e che invece è bene precisare. Abbiamo parlato di impianti di seconda selezione, diciamo che sono quelli più sotto l'ala protettiva e gestionale del Corepla. Noi svolgiamo la prima selezione e ci tengo a chiarire che per prima selezione intendiamo separare i materiali per tipologia, quindi la carta con la carta, la plastica con la plastica, metalli, vetro e lattine, e eliminare l'impurità, proprio perché nel rapporto con il Corepla sempre più ci è stato richiesto di inviare plastiche che siano prive di impurità, con quantitativi minimi di impurità. Da questo punto di vista i lettori ottici danno un grande supporto, perché se prima potevamo con la selezione manuale trattare una tonnellata e mezzo all'ora, una tonnellata e 600 kg all'ora, adesso arriviamo anche a 6 tonnellate all'ora. E facendo un riferimento agli aspetti occupazionali lavorativi, non è che questi processi diminuiscono il livello occupazionale, ma lo modificano, anzi qualificano ulteriormente il lavoro, perché da selettori manuali, un'attività diciamo molto più povera, si passa ad essere manutentori e controllori di macchine, quindi c'è anche una crescita professionale. Una crescita che voi diciamo fate anche internamente fare a chi è già dipendente? Cioè sì, viene istruito per l'uso di queste macchine? Noi abbiamo rapporti con soggetti esterni o anche con i nostri lavoratori dipendenti. Preciso peraltro che questi nostri impianti sono tutti in capo ad una controllata che si chiama Acron, controllata dal gruppo Erambiente, e il gruppo ed Acron a sua volta utilizza propri dipendenti o anche rapporti con soggetti esterni. Però da questo punto di vista mi piace sottolineare appunto anche questo miglioramento delle condizioni di lavoro, proprio perché si passa dall'essere operatori nella selezione manuale ad operatori da banco per il controllo di questi processi o per la manutenzione di questi macchinari. Tra l'altro l'apertura di nuovi impianti fa sì che a maggior ragione vengano preservati i posti di lavoro. Esattamente. L'apertura di nuovi impianti e l'aumento crescente delle quantità di raccolta differenziata, per cui anche se il capannone rimane sempre lo stesso, i rifiuti in ingresso sono maggiori, proprio perché le macchine con i lettori ottici sono in grado di trattare maggiori quantità di rifiuti. Mi pare di ricordare, ma me lo confermi lei, che l'Emilia Romagna sia una regione particolarmente attenta alla raccolta differenziata, sia tra quelle comunque avanzate, ecco, diciamo, del paese. L'Emilia Romagna è ben al di sopra di quella che è la media nazionale, ha raggiunto nel 2011, superato il 50% di raccolta differenziata. Ha una quantità pro capite che probabilmente è la più elevata a livello nazionale, perché noi abbiamo anche elevate produzioni di rifiuti pro capite per via di un nostro sistema produttivo, economico, per via dell'impatto anche del turismo sulla costa romagnola, e ritengo che l'Emilia-Romagna nella gestione dei rifiuti non possa che essere considerata una regione europea, che ben si distanzia da altre situazioni invece un po' più problematiche purtroppo del nostro paese, dove la raccolta differenziata è a livelli molto più bassi e il ricorso allo smaltimento in discarica è ancora troppo elevato. Bertazzoli, quando poco, non molto tempo fa, ricordo, così è stata data notizia della possibilità di raccogliere bicchieri di plastica e piatti di plastica e così via, lo si può fare adesso perché abbiamo questo tipo di macchine più sofisticate? Anche per quello. Sicuramente la possibilità di lavorare su impianti alla più alta tecnologia aiuta molto da questo punto di vista. Ci sono poi altri aspetti, certo c'è anche una componente di scommessa, perché come dico sempre speriamo che insieme ai piatti non arrivino anche le ossa di pollo, questo. Quindi che ci sia da parte del cittadino quel minimo di attenzione nello svuotare bene questi piatti, perché purtroppo, l'ha già detto il presidente Brandolini, ma ci tengo a sottolinearlo, quando si parla di raccolta differenziata, perché parliamo di uno strumento, ebbene questo strumento deve essere efficiente, quindi il problema della qualità della raccolta è assolutamente centrale. Ma va lavata la roba o basta essere attenti e non... Noi diciamo sempre, gli imballaggi vanno conferiti vuoti, svuotati, quindi senza residui evidenti del contenuto, quindi vanno ben svuotati. Nel caso dei piatti non è sbagliato magari col tavoglietto, il tavagliolo di carta, visto che in genere quando dargli una passatina. La passata, però non lavati, un po' perché sarebbe illogico di lavare le stoviglie monouso usa e getta, e un po' perché anche dal punto di vista ambientale sarebbe uno spreco anche questo, no? L'importante è che non ci siano gli spaghetti scotti, diciamolo in questi termini. Allora basta una passatina con il fazzoletto, insomma. Grazie a Gianluca Bertazzoli di Corepla e Filippo Brandolini, presidente di Era Ambiente. Ci fermiamo qui, l'appuntamento con l'altro pianeta per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto.